Ah, sei tornato, Fox il Baro. Sai che non mi è piaciuto quel tuo brutto gioco da baro. A poker. Ti ho visto benissimo tirar fuori quella carta maledetta. Fox il Baro. Beh, e adesso cosa fai? Tiri anche fuori la pistola. Ma sì, lo so che è solo un bluff. Non hai il coraggio di sparare. Lo sanno tutti. Dai, prova a sparare, sai quasi. Cameriere, una bottiglia di whisky. No, Fox, non ti credo. Non sei capace di sparare a un amico come me. Non ce la fai, non sei capace. Non c'hai il coraggio. Sei solo un baro. No, non mi fai paura con quella pistola. Tanto non sparerai mai.